eventualmente non tornassimo mai più a respirare l'aria pura di lassù. C'è qualche cosa che mostrati io vorrei. C'è mia moglie qui, Mr. Jones, anche se questa foto è un po' vecchia. Puoi vedere la mia donna com'è bella, Mr. Jones. Da due giorni ci tengono qua giù, nel terrore continuo del grisù. Chissà se ancora c'è qualcuno che di là cerca sempre di trovarci oppure no. C'è mio figlio qui, Mr. Jones, fra tre giorni sarà la sua festa, ma purtroppo starà solo con chi resta, Mr. Jones. Io spero sempre di sentire dal di là il rumore di un qualcosa che verrà a porre fine in qualche modo a tutto ciò. C'è mia madre qui, Mr. Jones, vedo già sul bel viso di vecchia nuovi socchi procurati dal dolore, Mr. Jones, Mr. Jones. Siamo in due qui, Mr. Jones, ma lassù